Sono lieto di porgere il benvenuto a tutti, cordialmente, da parte dell'Istituto Trentino di Scienze Religiose e del Comitato Scientifico che ho l'onore di presiedere. Come sapete, l'Istituto Trentino di Scienze Religiose è una fondazione, una figlia, un figlio dell'Istituto Trentino di Cultura, che è compartecipe di questo invito, e sono stato delegato anche dal presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, l'onorevole Kessler, che è dispiaciuto di non poter essere presente per impegni precedenti questa sera, di porgere a tutti loro il più cordiale benvenuto. L'Istituto di Scienze Religiose, come è stato detto anche accennato nell'invito che certamente è stato oggetto della vostra attenzione, sta muovendo i primi passi. In un certo qual modo è alla prima manifestazione di fronte aperta a un più largo pubblico cittadino, con questa serie di incontri sui diritti dell'uomo. Non sto qui a ridire quanto è stato brevemente esposto sulla lettera d'invito della attualità di questo argomento, ma accanto al merito e al peso dell'argomento stesso vorrei approfittare di questa occasione per comunicare anche quella che è stata la seconda intenzione insita a questa iniziativa, che al di là di quello che può essere senza dubbio è il merito dell'argomento, del contenuto stesso dei vari argomenti qui esposti, vuol darci l'occasione di incontrarci, di una serie di incontri dove ci vediamo in faccia, dove ci conosciamo, dove abbiamo la possibilità di conoscere reciprocamente i propri interessi, la propria sensibilità, il proprio modo di vedere, di pensare, dove cioè l'Istituto Trentino di Scienze Religiose intende in certo qual modo presentarsi a coloro che potenzialmente possono figurare tra coloro che hanno un interesse all'Istituto e ai servizi che l'Istituto in un domani è chiamato a portare. Perché l'Istituto stesso, io più volte mi sono trovato a rispondere alla domanda: ma che cosa avete intenzione di fare? Quali sono i vostri programmi? Quali sono i vostri programmi accademici, eccetera? Un istituto come il nostro, direi, può tutto e niente. Non è che abbia una falsariga fissa, un determinato tipo unico e ben precisato di attività da svolgere, ma può inventare quel tipo di interventi, di incontri, di attività, sia in casi singoli, sia in corsi ristretti e limitati, sia in corsi più sviluppati a carattere accademico, a seconda che le richieste, le esigenze richiedono e presentano. E in questo senso vorrei proprio che questa serie di incontri ci desse anche l'occasione di sentirci reciprocamente, di riflettere insieme su ciò che l'Istituto può opportunamente dare per venire incontro a necessità e a esigenze reali più profonde e più sentite. In questo senso credo che l'argomento sia molto adatto per avvicinare tutti alla problematica delle scienze religiose, o meglio a una riflessione su un tema che va proprio in profondità e nel quale le scienze religiose senza dubbio sono destinate a dare il loro contributo. Il resto dei titoli lo trovate qui esposto, a suo tempo noi dirameremo ancora gli inviti. Raccomanderei, proprio chiederei la collaborazione di un certo interessamento e di una assiduità quanto possibile, benché gli argomenti, come possono vedere, sono anche ognuno a sé stante, ognuno forma una unità completa per conto proprio. Non mi resta ancora, da dire il nostro saluto cordiale al relatore di questa sera, professor Luigi Sartori, professore del seminario di Padova e della Facoltà Interregionale di Milano, presidente dell'Associazione dei Teologi Italiani e, non da ultimo, membro del comitato scientifico del nostro istituto, che ci è stato validissimo consigliere, direi di più ancora intimamente partecipe di tutte le riflessioni, le ricerche, di impostazione che il nostro istituto ha fatto nei mesi trascorsi. E al di là di questo generosissimo e valido aiuto e consiglio, anche nella stessa impostazione, nel reperimento degli illustri relatori, nell'impostazione del corso nostro, di questa serie di incontri che abbiamo programmato. Quindi la nostra riconoscenza a lui va al di là della stessa relazione di questa sera per la collaborazione all'impostazione del corso intero. Per la relazione di questa sera un particolare ringraziamento anche per l'abnegazione con la quale egli per primo si è assunto il compito di aprire questo discorso. Dico subito che egli è disponibile dopo la sua relazione, anche se qualcuno avesse il piacere di porre qualche domanda, non avremo probabilmente moltissimo tempo a disposizione, però lo dico fin d'ora, ciò che chi avesse piacere nel frattempo di formulare qualche domanda da porre al relatore lo possa fare, e auguro a tutti un buon e proficuo ascolto. Sono sincero se vi assicuro che sono molto contento di aprire questo ciclo di lezioni, perché è la prima volta in Italia che si prende di petto un tema così importante, e quindi è una specie di onore anche per la città di Trento di avere per la prima in Italia preso in considerazione, ripeto, questo tema. Ed è attualissimo perché proprio in questi giorni si sta vivendo a Belgrado il secondo incontro di verifica del trattato di Helsinki, che è una propaggine per l'Europa, almeno in parte, di quello che è stato già fatto nel lavoro dell'ONU, specialmente con la proclamazione dei diritti dell'uomo. E anche a Belgrado partecipano intensivamente membri delle varie chiese, e avrete fra qualche tempo anche la gioia di ascoltare il pastore Williams, che è uno dei principali artefici della presenza delle chiese cristiane nell'ambito delle attività che in Europa si svolgono per mantenere in piedi questa attenzione vivificante al tema dei diritti dell'uomo. Questa mia relazione cercherà di commentare, a modo mio, uno stupendo documento che è stato preparato nel 74, 10 dicembre, a commemorazione dei 10 anni della dichiarazione dei diritti dell'uomo da parte dell'ONU, da parte della Commissione Justitia et Pax, con il suo presidente, Cardinal Maurice Roy. E eventualmente questa mia relazione riesca a soddisfarvi in parte, sarà un incitamento ad andare alla fonte e a richiamare quanto è stato più autorevolmente detto dal Cardinal Roy. Ritengo significativo un testo che ha già qualche anno, dei fratelli Italo e Francesco Dragosei, due studiosi e giornalisti, i quali hanno allestito un volume dal titolo I diritti dell'uomo, editore Marotta, Napoli 69, dove hanno raccolto praticamente quasi tutte le magne carte che fondano il tema dei diritti dell'uomo. Ed è significativo che essi presentano questo volume, un bel grosso volume, con nella fascetta questa presentazione: la Bibbia dell'uomo moderno. Probabilmente hanno ragione. È un modo questo di riaffrontare la essenza della rivelazione biblica. Ma è ancora più significativo che in questo grosso volume, accanto alle famose carte dell'ONU, alle dichiarazioni, diciamo, della Magna Carta Libertatum del 1215 dell'Inghilterra, che è all'origine, potremmo dire, della democrazia moderna, accanto ad ampi, direi amplissimi, stralci delle encicliche dei papi, specialmente Mater et Magistra, Pacem in Terris, Populorum Progressio, non Octogenium ad Venis, che era troppo tardi, hanno voluto inserire all'inizio addirittura il Decalogo come primo testo che sancisse il valore della persona umana. E poi subito hanno aggiunto per il Nuovo Testamento addirittura tutto il Vangelo di San Giovanni. erano incerti se mettere soltanto il discorso finale di Gesù, dove Gesù chiede veramente l'unità degli uomini in lui e tra lui e il Padre, e hanno preferito porre tutto il Vangelo di San Giovanni, perché quel Vangelo inizia con le grandi parole: in principio era il Verbo, era presso Dio e il Verbo si è fatto carne. Ebbene, leggendo veramente questo testo, che riassume un po' tutta la problematica e la tematica sui diritti dell'uomo, mi è venuto spontaneo ricordare il primo grande grido di dichiarazione della dignità umana, San Leone Magno, il quale nel sermo primo de Nativitate Domini, nella festa del Natale, uscì in quella famosissima frase: «Agnosce Cristiane dignitatem tuam», riconosci, o cristiano, la tua dignità. Non è che si rivolgesse solo al cristiano, si rivolgeva all'uomo che in Cristo aveva riscoperto la sua dignità. Ebbene, se questa è la prima dichiarazione del valore della persona umana, ci sia lecito percorrere la fatica fatta dall'umanità, sia dentro la Chiesa, sia fuori dalla Chiesa, la fatica fatta nel riconoscere, cioè nello scoprire progressivamente questo grande valore dell'uomo disegnato nel volto di Cristo, il quale a sua volta è specchio del Padre e ci rimanda a Dio. Mi permetto di darvi, non sono uno storico, ma come ha fatto anche il documento di Justitiae Pax, vorrei anch'io tentare un piccolo sguardo a tutti i tre grandi drammi della storia, o tre atti della storia. Il primo è la scoperta progressiva della Chiesa, fatta dalla Chiesa, di questo Vangelo della dignità dell'uomo. Un secondo momento in cui l'uomo moderno si emancipa dalla Chiesa e celebra un suo Vangelo, spesso antitetico al Vangelo di Cristo, meglio al Vangelo promulgato dalla Chiesa, per venire all'epoca nostra, che dovrebbe segnare una svolta nella storia in cui finalmente Chiesa e mondo, Chiesa e uomo moderno, non contrappongono Vangeli sull'uomo, ma cooperano per un Vangelo in cui e la parola di Dio e la ragione dell'uomo si trovano d'accordo nel indicare l'insondabile e inviolabile valore della persona umana. Da dunque un primo sguardo. La fatica fatta dal cristianesimo concreto, quindi la Chiesa, nel decifrare questo Vangelo della dignità dell'uomo, e soprattutto la fatica fatta nel costruire l'uomo nuovo, l'umanità nuova, attingendo naturalmente dal Vangelo, ma anche dalle risorse umane che erano allora, direi, sul mercato. Anzitutto dunque, in questo primo periodo, il Vangelo della dignità dell'uomo. L'ho già indicato, richiamandomi all'inizio al Vangelo di San Giovanni. È il mistero dell'incarnazione che è stato via via riscoperto dalla Chiesa come principio e fondamento del valore dell'uomo. Guardando al mistero di Dio che si fa uomo, noi scopriamo questa consacrazione, non direi solo progressiva, ma integrale, totale dell'uomo. Dio si è fatto uomo in Cristo, assumendo non qualche uomo, non qualcosa dell'uomo, ma ogni uomo, perché ha assunto tutto l'uomo. L'uomo fin dall'embrione materno. Dio fatto uomo non è Dio uomo a 30 anni, come certe eresie dei primi secoli hanno tentato di affermare. Un Dio quasi che assorbe un uomo adulto, lo decapita della sua umanità più preziosa, cioè l'intelligenza, e se ne serve come un manichino per presentarsi agli altri uomini. I padri della Chiesa, il cristianesimo iniziale, hanno sempre combattuto contro questa tendenza a privilegiare un momento adulto dell'uomo. Il vero Dio si è fatto uomo fin dall'embrione materno, dal concepimento. Si è fatto bambino. Dio ha assunto il bambino. Si è fatto giovane, si è fatto operaio, si è fatto lavoratore, si è fatto anche professionista, ha assunto la famiglia, ha assunto in questo anche la donna, non ha discriminato nulla dell'uomo, anzi il mistero dell'incarnazione ha anticipato la stessa presenza di Cristo, il figlio di Dio, in una determinata razza. Non è diventato figlio di Dio Gesù di Nazaret al momento della circoncisione, cioè al momento in cui è entrato in una razza. Già prima, fin dal concepimento, era figlio, è figlio di Dio. Non è entrato in una delle tribù di Israele, anche se era della tribù di Giuda, tuttavia egli non privilegiò questa sua discendenza dalla tribù di Giuda per rivendicare titoli onorifici di potere. Anzi, egli rifiutò di essere chiamato e direi presentato come dominatore. Direi anche nemmeno voglia appartenere ad una scuola. La sua dignità non la attinse perché venne fuori da una scuola, tanto che la gente si meravigliava donde costui ha attinto questa dottrina. Anzi, egli si è messo in polemica contro tutte quelle correnti che discriminavano nel popolo di Israele, direi, i valenti dai non valenti. In fondo, come nella civiltà pagana, avevano diritti soltanto alcuni, non l'uomo, non chiunque possedeva la natura umana, ma chi era di una determinata classe, di una determinata professione, di un determinato rango sociale. Così nell'ambito ebraico c'erano i divisori, farisei, i divisori, i separatori, colui che celebravano, direi, una parte, un'elite a danno delle altre. Cristo non si è schierato con nessuna delle correnti, ha voluto presentarsi al di sopra, o meglio al di sotto e prima, di qualsiasi faziosità. Ha voluto essere uomo. Addirittura, direi, forse l'apice di questa sua polemica l'abbiamo quando ha discriminato anche, cioè ha tolto la discriminazione dei luoghi, il tempio, i luoghi sacri per il popolo ebraico erano ancora degli elementi, dei momenti forti di separazione, dove l'incontro con Dio aveva un privilegio, l'accesso, il contatto, quasi che fuori non ci potesse forse essere il contatto con Dio. Cristo ha abolito questa sacralità del Tempio e ha riferito il valore del Tempio al suo corpo, come indicare che è la persona il luogo dove Dio si manifesta, è la persona il Tempio di Dio, non soltanto la sua persona, la sua umanità, ma chiunque avesse imitato Lui e fosse stato protetto dall'ombra di Lui, di fatto ogni uomo. Ecco il luogo della presenza di Dio. È per questo che Cristo anche ha preferito le piazze, l'aria aperta per la sua predicazione. Egli non si è presentato come discriminatore. Nel mondo pagano l'immagine di Dio, per così dire, cioè l'uomo che in qualche maniera riproduceva sulla terra Dio, era l'imperatore o un altro personaggio sacro. Per Cristo ogni uomo, chiunque ha la natura umana, fin dal grembo materno è immagine di Dio e ha, per così dire, sancito il valore della persona umana fin dalle radici. Questo è il Vangelo che progressivamente la Chiesa ha scoperto, ma è chiaro che ha dovuto faticare a costruire l'uomo nuovo, la società nuova. Però si è provato, è stato un lungo sforzo di più di un millennio, 1500 anni per così dire, attraverso i quali la Chiesa ha tentato di realizzare quest'uomo nuovo, questa città nuova, questa umanità nuova. Ed ecco che vediamo che il cristianesimo entra nella storia demitizzando ogni potere, sia il potere imperiale, e diremmo politico, sia il potere culturale. Presso il mondo pagano, non è una retorica questa, l'imperatore, e presso anche il nostro mondo, spesse volte, chiunque in autorità, presso il mondo pagano l'imperatore, il sovrano, era sopra la legge. Al di sopra della legge c'era l'arbitrio, il potere della libertà emancipata in assoluto del sovrano. Al di sopra del sovrano non c'era nient'altro. La legge era al di sotto del sovrano, per i sudditi. Il cristianesimo ha introdotto la demitizzazione di ogni autorità, perché ha posto al di sopra anche dei principi, degli imperatori, dei sovrani, la legge di Dio. Dio al di sopra di tutto. E ha demitizzato anche la cultura, con la tendenza ad assolutizzare i verbi umani, le parole umane, mostrando come l'unico vero assoluto, l'unica vera verità che merita di essere chiamata con l'appellativo maiuscolo di verità assoluta è soltanto il Verbo, il Figlio di Dio. Questo messaggio il cristianesimo ha tentato di introdurlo e ci è riuscito in parte, anche se nell'assumere la realtà pagana, l'impero ormai sfasciato e poi il mondo barbaro, la Chiesa ha dovuto pagare qualche scotto a questa vittoria ottenuta faticosamente. Voi lo sapete dalla storia, tutto il cristianesimo medievale, la Chiesa medievale è stato un tentativo di una rivincita dello spirituale sul temporale, proprio nel senso di una vittoria di ciò che sta dalla parte di Dio e afferma il primato di Dio e delle coscienze sopra tutti gli altri valori. In questa vittoria ottenuta in qualche secolo dello spirituale sul temporale, della libertas ecclesiae sopra, direi, i vincoli, i limiti che vengono dal potere temporale, qualche volta il cristianesimo, direi anche spesso, ha messo sul trono ancora un uomo privilegiato, l'uomo spirituale, a danno dell'uomo materiale. Quante volte anche nell'ambito del cristianesimo valeva il principio barbarico cuius regio illius et religio, il proprietario di un potere era proprietario anche delle coscienze e introduceva addirittura la religione. Quante volte abbiamo avuto anche all'insegna dei valori spirituali l'accaparramento di beni materiali e la insindacabilità delle coscienze eritarie e l'oppressione o perlomeno il vincolamento delle masse, delle minoranze o delle maggioranze che si trovavano a subire la forza dei potenti anche di ordine spirituale. E questo scotto pagato al mondo ha introdotto anche nel cristianesimo, diciamo medievale, l'esercizio della forza per poter esercitare il potere, il privilegio, diciamo, anche dello spirituale. E si sono introdotte nuove discriminazioni e si sono introdotte delle guerre. È inutile negare questo retaggio, direi, di zavorra che in questo processo di crescita della vita cristiana, del cristianesimo, nella scoperta del valore della persona umana, si è introdotto lungo i secoli. Tuttavia possiamo dire, credo che sia onesto dire, che non si può parlare in questo periodo di totalitarismo, perché nonostante questo elemento ancora mondano, che è rimasto dentro la Chiesa nel suo tentativo di purificare l'uomo e di aggiustarlo all'immagine di Cristo e tramite Cristo all'immagine di Dio, o meglio al volto di Dio, in questo sforzo il cristianesimo, la Chiesa, diciamo, in concreto i cristiani, hanno inserito all'interno del sistema, per così dire, sempre il principio di verifica, di controllo, di critica, perché l'educazione della coscienza che fa appello alla legge di Dio è qualcosa che potremmo dire corrisponde alla vera democrazia reale, anche se molte discriminazioni e molti elementi ancora hanno turbato questo processo di sviluppo, come una certa fatica di maturare della storia umana. C'era la Chiesa in quel tempo, c'era il cristianesimo, ma non era puro ancora. Il cristianesimo e la Chiesa nel tentativo di camminare assumendo l'uomo pagano, l'uomo barbarico dentro il proprio interno, ha dovuto faticare e qualche debito l'ha pagato a questo retaggio pesante di umanità. Comunque il Vangelo della dignità della persona umana era già fissato, stabilito. Ma ecco che viene il secondo dramma, il secondo tempo, dove il mondo moderno si emancipa dalla Chiesa. È un mondo che rimane dentro l'area cristiana, dei principi cristiani, nonostante non lo si voglia riconoscere alle volte. Questo mondo moderno che ha scoperto la democrazia che credi di aver fondato appunto attraverso la democrazia la società, il regime sociale sulla dignità della persona umana, tutto sommato è ancora grandemente debitore allo spirito cristiano. Tutti reclamano l'inizio della democrazia nella Magna Carta Libertatum del 1215 dell'Inghilterra, ma chiunque la legge quella Magna Carta scopre che essa è nient'altro che il frutto del cristianesimo, non tanto perché le prime firme erano le firme dei vescovi di tutta la nazione inglese, ma perché veramente l'appello è fatto non tanto ai limiti del sovrano, dell'autorità del sovrano in nome del popolo, ma ai limiti dell'autorità del sovrano in nome di Dio e della legge morale, della legge di Dio. Ed è questo filone che parte dalla Magna Carta Libertatum dell'Inghilterra che viene avanti tutta una democrazia che si consoliderà anche negli Stati Uniti. La prima grande costituzione dei diritti dell'uomo sarà fatta negli Stati Uniti. Però la più celebre dichiarazione dei diritti dell'uomo, direi il manifesto della libertà moderna, viene dalla Rivoluzione francese e questa volta non è tanto ispirata alla matrice cristiana, anche se remotamente, direi, è un pozzo artesiano che attinge dalla falda acquifera dei principi cristiani. Questa volta l'elaborazione di questa carta dei diritti dell'uomo avviene, diremo, all'insegna di un'alternativa posta al Vangelo di Cristo. Siamo questa volta dentro un movimento che vuole liberarsi e di fatto si libererà dalla tutela della Chiesa. Ma ecco questo nuovo Vangelo, che sembra veramente nuovo e sembra Vangelo, il Vangelo della Rivoluzione francese, che per la prima volta, direi, sancisce, ed è stato firmato anche da vescovi della Camera della Camera di Francia, era segnato anche da vescovi, da personalità, quindi del mondo religioso. Questo nuovo Vangelo è un Vangelo in cui si fa leva ormai non più su Dio, ma si fa leva sulla ragione, la nuova dea che nasce in questo periodo, attingendo dalla nuova dea, la dea ragione. Apparentemente sembra mutuare tutte quelle grandi dottrine che erano state sviluppate nella Spagna del Seicento con i grandi giusnaturalisti, chiamiamoli pure così, di ispirazione cattolica come il Suarez, il Vittoria e Las Casas. Tuttavia, di fatto, questo giusnaturalismo, questo appello alla natura, ai diritti che sono sanciti dalla natura, in fondo apre la strada a un'altra dea, non più la ragione ma la libertà, perché dalla natura emerge unicamente una libertà formale. La natura non fa appello a Dio, ma genera nient'altro che una nuova forza, la libertà svincolata spesso da qualsiasi limite, da qualsiasi, direi, imperativo etico. E allora facilmente questo giusnaturalismo, questo appello ai diritti della natura, si sposa con il positivismo, si allea con il positivismo e ne viene fuori una pretesa di collocare tutta la fonte dei diritti in qualche cosa di libero pattuito dall'uomo. La società nasce da un patto libero dell'uomo, non è creatura della natura. In fondo la natura dà soltanto la ragione, ma la ragione passa a creare la società attraverso un patto libero dell'uomo, un patto, direi, senza limiti. Ed è in questa prospettiva che bisogna leggere questa nascita faticosa dei diritti moderni, della moderna libertà. Cioè abbiamo quasi a che fare con un vero Vangelo alternativo alla prospettiva cristiana. La grande diagnosi da cui è partito l'illuminismo è la seguente: anche le religioni positive, anche il cristianesimo come religione positiva che fa appello alla rivelazione di Dio, in fondo non ha uguagliato gli uomini, ha avallato le discriminazioni che c'erano, direi le ha aggravate, qualche volta ne ha posto di nuove, e quante guerre di religione sono nate ancora in nome dell'unico Dio, dell'unica parola di Dio, dell'unico Vangelo, dell'unico Cristo. Allora, di fronte a questa crisi delle religioni positive, di questa non pace, non unità del genere umano, che pure faceva appello al Vangelo, Ecco, si cerca un nuovo Dio, un nuovo Vangelo. Sarà la ragione dell'uomo. Sarà questa possibilità dei diritti sanciti dall'uomo senza appello alla fede, che diventerà il nuovo Vangelo. E difatti, noi sappiamo, a differenza della linea della democrazia inglese, noi sappiamo che la democrazia francese, come è stata generata dalla rivoluzione francese, della dichiarazione dei diritti dell'uomo nella Costituzione di Francia, noi sappiamo che questi principi sanciti vengono chiamati immortali principi, qualche cosa quindi che non è dovuto a ragioni politiche, a attenzione alla prassi, direi al metodo positivista inglese, ma sono quasi una specie di scoperta della verità assoluta. E in questo senso noi abbiamo la pretesa di creare una società finalmente perfetta, finalmente al di sopra di ogni discriminazione, dove ogni uomo ha il suo posto, tutti nascono uguali per natura, tutti sono uguali, fratelli, liberi. E purtroppo questa democrazia che nasce all'insegna di questa ragione svincolata dalla legge naturale, in senso stretto, ricorre essa stessa facilmente alla forza, al numero. Il popolo a cui si appella in fondo è una massa, e da questo periodo direi non è che si ritorni, si scopra veramente la possibilità di unificare e pacificare i popoli, perché attraverso il bisogno che ha la ragione, che rimane in astratto una dea, di concretizzarsi nella storia attraverso l'appello alle molte ragioni, alle ragioni delle teste che facciano maggioranza, ecco che di nuovo si ricorre alla forza, al numero, a ciò che mette la somma, l'addizione dei valori, per cui si costruiscono maggioranze e si costruiscono minoranze. È vero che questa democrazia, che ha scoperto queste grandi luci dei diritti dell'uomo, ha combattuto finalmente contro privilegi, ed è vero che questi privilegi spesso erano mantenuti ferocemente in piedi anche da cristiani, facendo appello al Vangelo, meglio allo spirito cristiano in generale. È vero che si è combattuto contro i privilegi, però è anche vero che le coscienze sono state poste non di fronte a un valore assoluto, ma di fronte a qualche cosa di puramente ideale, anteriore, direi, a se stesse, ma come prodotto lapidario di se stesso. Ecco la tendenza del mondo moderno di fissare, cavando fuori da sé, in principi statutari, lapidari, come dei primi principi, per obbligare poi l'uomo, le società, ad essere coerenti con se stesse. Una specie di divinizzazione dell'a priori che esce dall'uomo, che viene potenzialmente scritto come le due tavole della legge portate da Mosè sul Sinai, dal Sinai, viene scritto fuori e idolatrato, prodotto dell'uomo, di fronte a cui l'uomo si inchina, la coerenza dell'uomo a se stesso. L'unica anteriorità che viene collocata prima dell'uomo, prima dell'autorità, prima del popolo, prima della democrazia, è nient'altro che questa autorità di un a priori, o meglio di un antecedente, che è stato però estratto ancora dall'uomo, ed è qualche cosa di umano, fragile quindi, e caduco. E allora si capisce come, nonostante queste belle aspirazioni, questi bei sogni, proprio nel mondo moderno siano nati ancora di più che in passato i nazionalismi, i classismi, le discriminazioni elitarie, per cui alcune maggioranze, non sempre legittime, che sono arrivate al potere attraverso la rivoluzione, hanno, direi, violentato le minoranze. E in fondo tutta questa nuova forma di violenza è potuta psicologicamente pesare ancora di più sulle coscienze dei popoli e le coscienze delle persone. Perché almeno in passato, in qualche maniera, chiunque rivendicava in nome della legge di Dio i suoi diritti aveva a che fare con una libertà, la libertà del principe, una persona, un essere personale contro cui combattere. In questo mondo moderno, in cui l'anonimato, l'impersonalità di queste forze che poi sono riuscite tecnicamente a strutturare gli stati, le società in maniera veramente imprigionante, Allora, in questa situazione, le coscienze di coloro che venivano schiacciati, e oggi sono ancora così schiacciati, di fronte a questi mondi totalitari, si trovano di fronte a qualche cosa di molto più pesante. Non c'è più un essere personale contro cui combattere, o in nome di cui combattere, ma c'è questa grande cappa cieca, sorda, che è una forza fisica che sembra schiacciare. Non si è mai parlato tanto come nell'epoca moderna di oppressione, di violenza, di alienazione dell'uomo, di uomo schiacciato, di uomo indifeso. Ed ecco, in questo periodo in cui l'uomo adulto ha scoperto un suo Vangelo, ma in alternativa al Vangelo di Cristo, o meglio della Chiesa, ecco che in quest'epoca moderna la Chiesa si trova, direi, in una notte buia, in un certo senso, sì. Si trova come nella nebbia, soffocata di fronte al suo stesso Vangelo, per cui si mette a difendersi, difende se stessa, non l'uomo. È stato notato anche dal Cardinal Roy che purtroppo in questo lungo periodo, dalla Rivoluzione Francese alla Pace Interris, al Concilio Vaticano II, abbiamo una Chiesa che difende l'uomo, ma l'uomo cristiano, l'uomo della Chiesa, difende ancora se stessa, difende la società cristiana. Non c'è un grido di allarme propriamente detto in difesa dell'uomo in quanto tale, almeno in maggioranza delle grida, delle controdenunce da parte della Chiesa. È una difesa di sé, in una situazione nebbiosa in cui la Chiesa assediata e quasi soffocata, ecco, sente soprattutto di dover difendere i suoi diritti, ma intanto lentamente prepara la strada per ritornare a scoprire il volto di Cristo in ogni uomo, anche fuori dei cristiani, e a difendere i diritti di ogni uomo. Il grande dramma di questo lungo periodo che ci porta fino adesso è proprio questo: una Chiesa che è costretta sulla difensiva, che è costretta, diremmo, a gridare in controdenunce nei confronti del mondo moderno che sbandiera le sue libertà, invece di preparare la gestazione di un nuovo mondo, si limita spesso a sognare un ritorno alla società passata, all'ideale passato, e ricombatte le sue battaglie come fossero le battaglie del Medioevo, pro libertate ecclesie, la libertas societatis christiane. E abbiamo, per citare alcuni elementi, Pio VI, che considera sacrilega la Costituzione francese. Abbiamo Pio VI e Gregorio XVI che chiamano dicono che la libertà moderna è un diritto mostruoso e chimerico. Abbiamo Gregorio XVI e Pio IX che chiamano deliramentum, delirio, il tema delle libertà moderne. E abbiamo la condanna delle libertà moderne con la quanta cura e il sillabo di Pio IX. Si fa leva appunto sul fatto che il contesto nel quale questo grido di libertà e dei diritti dell'uomo viene rivendicato dal mondo moderno è un contesto di nuovo Vangelo, di alternativa al Vangelo di Cristo, dove la libertà sembra presentarsi come assoluta, senza riferimento a una legge morale e senza riferimento a Dio. Comunque i fatti sono fatti e vengono riconosciuti con onestà anche dai testi conciliari e addirittura appunto da questo documento di Justitia et Pax. Soltanto con Leone XIII inizia un periodo più sereno, dove si comincia a distinguere ciò che viene dalla virulenza della lotta, dall'agnosticismo moderno, e ciò che rappresenta invece la sostanza di recupero di valori cristiani. E pian pianino si prepara la strada per ripensare di nuovo al Vangelo di Cristo. E vorrei dire che in questo mi sento di dover sparare proprio una mia parola di riconoscenza a Pio XI. Personalmente non ho mai trovato un testo così denso nell'affermare la grandezza della persona umana quanto nell'enciclica di Pio XI del 37 contro il comunismo ateo. Strano, è la enciclica più dura che forse sia mai stata costruita nella storia. L'enciclica più tremenda, diremmo oggi, farà brividire. Però proprio in questa enciclica io ho trovato il passo più bello che mai sia stato scritto e direi anche il più profondo nello scoprire e indicare il valore della persona umana. Voglio leggerlo. Quanto all'uomo, il numero 27 di questa enciclica, ciò che la ragione e la fede dicono di lui, noi ne abbiamo esposto i punti fondamentali nell'enciclica sull'educazione cristiana. L'uomo ha un'anima spirituale immortale, è una persona, dal creatore ammirabilmente fornita di doni di corpo e di spirito, un vero microcosmo, come dicevano gli antichi, un piccolo mondo, che vale di gran lunga più di tutto l'universo, l'immenso mondo inanimato. Egli ha in questa e nell'altra vita solo Dio per ultimo fine. Questa frase ancora quando io ero studente me la sono sottolineata con 7-8 paracarpi, ce l'ho ancora. È la frase che ho trovato più profonda, più radicale di tutte le... Neanche nel Vaticano II ho trovato una frase così potente. Ed è veramente la frase decisiva. La dignità della persona umana consiste nel fatto che solo Dio è fine dell'uomo, di ogni uomo. L'uomo non ha nessun altro fine che Dio. È dalla grazia santificante elevato al grado di figlio di Dio, incorporato al regno di Dio nel mistico corpo di Cristo. Ed ecco la prima dichiarazione dei diritti dell'uomo, 37, in un'enciclica contro il comunismo. Conseguentemente Dio l'ha dotato di molteplici e svariate prerogative. Diritto alla vita, all'integrità del corpo, ai mezzi necessari all'esistenza, diritto di tendere al suo fine ultimo nella via tracciata da Dio, la vocazione di ciascuno, diritto all'associazione, alla proprietà e all'uso della proprietà. Ecco una piccola, lapidaria affermazione di diritti dell'uomo già in Pio XI. In Pio XII noi troviamo i famosi discorsi, i messaggi natalizi, specialmente del 41-42, se chi vuole che la stella della pace brilli sul mondo deve fondare la società sulla dignità della persona umana, e cominciano gli elenchi di diritti. E poi si arriva soprattutto a Papa Giovanni con la Pacem in Terris. Veramente la Pacem in Terris, lo dirò dopo meglio, è una svolta nella storia della vita cristiana nei confronti dei diritti dell'uomo. Una progressiva, diremmo, riscoperta del Vangelo al di là della nebbia di quel periodo turbinoso nel quale il mondo si è emancipato dalla Chiesa e ha preteso di scoprire un suo Vangelo antitetico al Vangelo cristiano. Che dire, sulla scorta di quanto ha già considerato il Cardinal Roy, di questi due periodi, il primo periodo di faticosa riscoperta, o meglio riconoscimento della dignità della persona umana, di una Chiesa che assume anche in proprio l'umano, barbarico, pagano, romano, che dire del secondo periodo, di questo periodo in cui l'uomo si emancipa e crede di riscoprire esso stesso per primo la fonte della dignità della persona umana? Potrei adoperare la parola di Paolo nella lettera ai Romani. Dio ha concluso tutto sotto il peccato, cioè e l'uno e l'altro hanno peccato, cioè un esame di coscienza si è riproposto alla Chiesa di oggi e al mondo di oggi di fronte a questi due periodi nei quali ambedue hanno peccato. Non stiamo qui a domandarci chi di più, chi di meno. È chiaro che le colpe del mondo moderno sono grandissime, sono funeste, soprattutto se le misuriamo nei confronti delle bestemmie e dei soprusi che sono stati esercitati nei confronti della Chiesa, del Vangelo. Però anche i cristiani, non diciamo la Chiesa in se stessa come entità misterica, ma i cristiani del primo periodo, quante colpe hanno anche loro sulla loro coscienza. Ma alla fine potremmo dire Dio ha disposto che nell'esame si trovassero mancanti e gli uni e gli altri, perché tutti e due arrivassero finalmente a scoprire che bisogna voltare pagina, ed è ciò che il terzo periodo significa per noi oggi, la storia del mondo e della Chiesa. Oggi siamo alla ricerca di un nuovo umanesimo, dopo delle esperienze di faticosa scoperta del valore dell'uomo, fatta dalla Chiesa in proprio e assumendo il mondo, dopo la delusione e l'illusione generata nella mentalità di oggi, nella storia di oggi, dall'uomo resosi adulto che pretendeva da solo di scoprire il suo Vangelo. Ecco, finalmente Chiesa e mondo sentono oggi il bisogno di lavorare insieme per una riconciliazione di questi loro valori, perché si apra la strada finalmente a un nuovo umanesimo. E in quel senso si può dare ragione a quei due autori del libro che ho citato all'inizio. Forse una specie di Bibbia per il mondo moderno, per l'uomo moderno, si può riscoprire mettendo insieme i testi biblici e i testi lapidari delle costituzioni moderne o delle dichiarazioni moderne che sanciscono i valori dell'uomo. In realtà, le due tavole della legge quasi moderne proprio devono essere queste: il Vangelo come parola di Dio e, direi, la luce della ragione umana, dell'uomo. Quasi una specie di Antico Testamento, se volete, o perlomeno la seconda o la prima tavola della legge, la tavola dell'uomo, la tavola degli apporti umani. È il periodo in cui Chiesa e mondo cercano di lavorare insieme, perché l'uomo di oggi e di domani ha bisogno di questa cooperazione. E infatti, una prima connotazione, a livello di riscoperta del Vangelo nella sua duplice forma, di parola autentica di Dio e di luce della ragione umana aiutata da Dio. Ecco una prima osservazione. Mai come oggi, forse, si scopre il valore altamente democratico della parola di Dio, che sulla scorta di quanto ha detto San Tommaso è stato recepito nel Vaticano I, è entrata nella storia proprio per aiutare la ragione del popolo, degli umili. Mi permettete qui una piccola riflessione, forse un po' pesante, diciamo qualche volta scientifica, ecco. Per San Tommaso, e secondo il Vaticano I che ha assunto questa teologia di San Tommaso, la parola di Dio, la rivelazione biblica, ha quattro funzioni per rapporto alla mente dell'uomo. Aiuta la mente dell'uomo a vincere i dubbi e ad acquisire le certezze sul piano dei valori morali, di coscienza e religiosi. L'aiuta a vincere gli errori ed avere quindi una garanzia di camminare nella verità. L'aiuta però, queste due cose sono state quasi sempre trascurate dai teologi e dalla vita della Chiesa. Aiuta anche affinché presto gli uomini, cioè non soltanto alcuni elitari uomini a 40 anni, ma subito le generazioni umane, fin dai primi anni della vita, tutti presto raggiungono le verità indispensabili per guidarsi nella fede. Ebbene, mentre nei periodi passati si dava più valore alle prime due finalità della rivelazione, dare certezze e dare fermezza, superando il rischio del dubbio, oggi sembra che si debba sottolineare questo aspetto democratico, cioè la finalità ultima del Vangelo, della parola di Dio, è di arrivare a cogliere il popolo, ad aiutare la ragione di tutti, non dei grandi filosofi, di coloro che studiano, venire incontro alle teste dei più piccoli e di tutti gli uomini, perché tutti presto possano agguantare il primato della coscienza e vivere da persone responsabili di fronte alla società. E direi che questo privilegio oggi, direi di una coscientizzazione di tutto il popolo, è sentito a tutti i livelli, nell'America Latina e anche nel nostro continente. E la predicazione, diremmo, l'evangelizzazione dei diritti dell'uomo ha questa finalità, che non serve tanto ai popoli potenti, non serve tanto alle classi colte, serve soprattutto a dare garanzia e valore alla voce delle coscienze dei più umili, cioè di tutti. Potrei citare a questo livello le grandi diagnosi fatte da Ivan Illich, per esempio, o da Erich Fromm, autori che certamente voi conoscete, i quali stanno, direi, una specie di apocalittica, di tendenza apocalittica, denunciando il rischio che oggi il professionalismo renda un po' tutti succubi della violenza delle professioni e si perda il valore della persona. Ieri coloro che opprimevano la persona erano alcuni soltanto, gli imperatori, persone delle classi colte, coloro che avevano professioni, non erano tutti. Oggi il professionalismo si è generalizzato, non c'è più nessuna persona che valga come uomo. Ognuno di noi deve avere un'etichetta, deve avere una professione, e dietro la professione ci si nasconde. Il mondo di oggi sembra diventato un mondo di maschere, non di persone. Ciascuno sta dietro la professione, manda avanti, e la professione diventa oppressiva. Quanti di questi discorsi nella letteratura di oggi sono stati mandati avanti? Si sente oggi il bisogno di far vivere soprattutto le coscienze, perché il rischio di nascondersi come persona dietro la professione è diventato veramente enorme, fatale, e allora tutta l'umanità diventa di nuovo un gioco, una lotta di professioni che vogliono essere preeminenti. E i testi di Ivan Illich e di Erich Fromm sono lì a indicare come oggi non dobbiamo aver paura tanto degli imperatori, dei principi, delle classi colte, eccetera, dobbiamo aver paura di noi stessi, perché dovunque il professionalismo oggi uccide la persona o rischia di uccidere la persona. Siamo diventate maschere, non più persone in senso stretto. Una seconda osservazione: oggi il nuovo Vangelo, il Vangelo dei diritti dell'uomo, deve accettare che la predica sull'universalità dei diritti cominci dai più deboli, dai più poveri. La concretezza oggi chiede che l'evangelizzazione, sia da parte della Chiesa sia da parte del mondo, tenga conto delle minoranze, di coloro che non hanno voce. Perché se si vuole concretamente, realmente essere paladini della dignità di tutti, bisogna cominciare a dare dignità a coloro che non hanno forza di farla riconoscere e di farla valere presso gli altri, gli ultimi. E in un certo senso noi come cristiani abbiamo una grande battaglia da mandare avanti. Noi dobbiamo essere all'avanguardia di tutti per dire che noi siamo anche i datori di voce ai non nati. Sta nascendo in Europa la Lega, la carta, una lega di persone che stanno creando una carta europea dei diritti del bambino non ancora nato. Voi sapete che in nome dell'ONU nel 59 si farà l'anno del bambino per commemorare il 20° della carta dei diritti del bambino. L'ONU non ha soltanto prodotto la carta dei diritti dell'uomo nel 48, ma poi nel 53 ha prodotto la carta dei diritti della donna, nel 73 abbiamo fatto l'anno della donna. Nel 59 ha prodotto la carta dei diritti del bambino, e nel prossimo 79 faremo l'anno dei diritti, l'anno del bambino. Ebbene, si sta mandando avanti anche questa iniziativa, perché veramente essa corrisponde all'ideale cristiano. Se veramente la proclamazione di diritti deve cominciare privilegiando quelli che non hanno la possibilità di garantirsi di fronte a una società oppressiva, questi devono essere anzitutto i non nati, anzitutto i più deboli, i più fragili. Una terza osservazione: la priorità concreta, ormai, siccome ha a che fare con un tutt'uno della dignità dell'uomo nei suoi diritti, deve tener conto per la proclamazione e la rivendicazione dei diritti dell'uomo soprattutto la diagnosi delle cause che rendono l'uomo oppresso e delle cause che rendono certe classi dell'umanità o certi settori dell'umanità incapaci di far valere i propri diritti. A questo livello oggi, come è nel trattato di Helsinki, nella dichiarazione di Helsinki e nelle discussioni che si fanno in questi giorni a Belgrado, oggi il grande problema non è tanto quello di proclamare i diritti dell'uomo, della persona umana, quanto quello di trovare la strada per la tutela di questi diritti, dare garanzia soprattutto affinché gli stati, le strutture non diventano imbalsamatrici di queste proclamazioni, affinché veramente i regimi totalitari non abbiano a prendere talmente il sopravvento da giocare anche queste dichiarazioni. A questo proposito, un forte movimento sta nascendo nell'America Latina. Cito soltanto un autore, un grande, per me uno dei più grandi teologi dell'America Latina, Juan Luis II, secondo di Uruguay, il quale sta facendo una battaglia per dire a noi: attenti che dietro le proclamazioni dei diritti dell'uomo ci potrebbe essere ancora un rischio di ideologizzazione e di mano forte data ai potenti. Perché noi vediamo che oggi corrono tutti i grandi stati, le grandi nazioni a dichiarare i diritti dell'uomo, anche la Russia si muove. Dovete sapere, tra parentesi, che il 48, quando fu fatta la dichiarazione all'ONU dei diritti dell'uomo, ci sono state 8 nazioni che non hanno dato il loro voto, non hanno votato contro, ma si sono astenute, e tra queste sono quasi tutte le nazioni dell'est. Si è astenuta la Russia, si è astenuta la Polonia, si è astenuta la Jugoslavia, si è astenuta la Cecoslovacchia, si è astenuta la Ucraina, si sono astenute queste nazioni. Adesso invece noi vediamo Stati Uniti, vediamo Russia, vediamo tutti gli stati che corrono a proclamare i diritti dell'uomo. E dice questo movimento, che direi ha il suo focolare in America Latina, attenti che perché è molto facile per l'astuzia di regimi moderni di fissare i diritti, perché una volta sono fissati è più facile trovare le scappatoie per poterli violare. Noi spesso diciamo una nostra battuta, no? Fate le leggi, subito si trova anche l'arte di circuirle. Oggi, allora, ecco una grande, importante, diremmo, finalità dell'azione anche di cattolici, di cristiani. Ecco perché noi cristiani dobbiamo essere presenti in questo movimento moderno. Perché bisogna veramente diventare, soprattutto, attenti nel denunciare tutto ciò che artificiosamente strumentalizza la dichiarazione dei diritti dell'uomo per manovrare stati totalitari, come succede in America Latina. Gli stati accettano alle volte i diritti dell'uomo, ma in nome del bene supremo, in nome della sicurezza nazionale, ecco l'altro idolo che oggi si manda avanti, vengono violati sistematicamente i diritti dell'uomo. E la risposta è trovata con estrema facilità, perché questi alcuni vengono sacrificati, ma per tutelare i diritti dell'uomo della maggioranza. Il 99% ha diritti umani, allora quell'1% che è in pericolo, diventa pericolosa per il 99%, deve essere anche frenata. Un'altra osservazione, in questo contesto allora noi non possiamo più teologicamente, questo lo dico anche contro me stesso, non possiamo più teologicamente accarezzare le sistemazioni di diritti dell'uomo, lo facevo anch'io quando ero studente, quando insegnavo i primi anni filosofia del diritto, eccetera. Non possiamo più accarezzare i grandi sistemi in cui mettiamo in organizzazione i diritti dell'uomo. Se amiamo veramente i diritti dell'uomo nel momento concreto affinché siano realizzati, dobbiamo accettare la gerarchizzazione storica, come ci dice il Cardinal Roy, cioè oggi dobbiamo enunciare quei diritti che sono più conculcati. Noi dobbiamo dare la priorità a quei diritti che oggi sono primari nel senso della sensibilità e nel senso della conculcazione, perché veramente si realizzi un cammino. Ecco in che senso oggi, per esempio, aiutati già da Pio XII secondo, che è stato il primo ad avere questa grande sottigliezza, era un uomo eminentemente giuridico, Pio XII secondo, dobbiamo distinguere i diritti A e i diritti D. I veri diritti primari oggi sono i diritti A, e dopo vengono i diritti D. È più importante il diritto al lavoro che il diritto del lavoro. È più importante il diritto alla vita che non il diritto della vita. Prima devono essere sanciti i diritti di chi non hanno accesso ad essi, di chi è ancora in attesa di ricevere. E una volta che uno ha ottenuto un suo diritto, un suo possesso, una proprietà privata, allora difendiamo anche questi diritti. È una, direi, una accentuazione, diremo, che anticipo a quel discorso che oggi noi reclamizziamo molto in Erich Fromm, perché ha fatto quel libro Essere e Avere, dove dice la civiltà di oggi è fondata sull'avere, la vera civiltà deve essere fondata sull'essere. In fondo l'essere fondata, la civiltà sull'essere, vuol dire dare il primato, i diritti a, cioè il diritto ad avere l'esistenza, il diritto ad avere i mezzi per l'esistenza, tutto ciò che consente a uno di esistere, e dopo i diritti del conservamento, della conservazione di sé, del possesso di sé. Direi una tematica questa assai interessante, che diremmo mostra come a distanza di 15-30 anni queste cose erano già dette all'interno della vita della Chiesa, noi eravamo disattenti. Io ricordo che queste cose là già le notavo quando studiavo, ma allora la Chiesa non era sensibile a queste voci. Adesso Eric Fromm le dice, allora tutti siamo sensibili a questo. Anche Roosevelt, nella famosa sua dichiarazione di diritti dell'uomo, che precedette la dichiarazione dell'ONU, ha sancito questi quattro diritti. In fondo, se li osservate bene, sono una specie di echeggiamento, di eco della dottrina della Chiesa, della dottrina di Decimo Secondo. Diceva: i diritti quattro fondamentali sono questi: il diritto di parola, cioè di esprimere il proprio pensiero. Sono molto concreti gli americani. I francesi hanno sempre celebrato il diritto di libertà di pensiero, ma per loro la concretezza della libertà di pensiero si esprime nella libertà di parola di espressione, libertà di religione, cioè di fede e culto, e poi libertà dal bisogno e dalla paura. Stupende queste due cose. Però in fondo, se ci pensate bene, la libertà dal bisogno e dalla paura, in fondo traducono in termini anglosassoni, se volete, i diritti a. Il diritto di arrivare ad essere finalmente qualcuno, essere liberati da tutto ciò che ci condiziona, i bisogni che ci fanno ancora non essere quello che dovremmo essere, e dalla paura di perdere o di non arrivare. E direi, come ultima osservazione a questo livello, qui mi piace anche perché devo confessare un mio peccatuccio, cioè oggi bisogna che abbiamo il coraggio di dare il primato ai diritti sui doveri. Il mio peccatuccio è sempre stato questo. Io ho sempre trovato un dispetto ogni volta che vedevo enunciati i primi diritti. Io in questo sono mazziniano, scusate. Mazzini continuava a dire: si predicano troppo i diritti e poco i doveri. E quando leggevo, anche quando ho letto la prima volta la Pacem in Terris, sono rimasto male. E dicevo, un po' contro Monsignor Pavan dentro di me, se fossi stato io a scrivere l'enciclica, no, avrei messo prima i doveri e poi i diritti. Adesso, questa è una parte di me che dice questo, ma l'altra parte sta convertendosi. Ed è quella che dice, in teoria sì, io sono convintissimo, questo non mi viene scalfito, in teoria prima vengono i doveri, è il fine che crea il diritto, un assioma tedesco, dei giuristi tedeschi, Zweck, Schaft, das Recht. È il fine che crea il diritto. Se noi non avessimo un fine, una vocazione, un dovere radicale, tutti i nostri diritti non sussisterebbero, sarebbero fondati sulla sabbia. Oggettivamente è così. Però storicamente, politicamente, se predichiamo i doveri rischiamo di privilegiare sempre delle classi, i potenti. E qui bisogna cedere ai maestri del sospetto, un po' cedere a Marx, cedere a Nietzsche, cedere a Freud. Chi è che maneggia molto la morale? Chi predica molto i doveri? Molto spesso la predica dei doveri viene fatta da chi ha in mano una situazione di potere. Invece, predicando i diritti, si dà voce a chi è oppresso, a chi non viene contato, a chi non ha voce. Direi storicamente, politicamente, la predica dei diritti è una voce data al popolo, è una voce data ai fragili, è una voce data ai poveri di Yahweh, è una voce data agli umili. La predica dei doveri, dell'etica, è una predica che viene senz'altro, anzi la Pacem in Terris giustamente dice c'è correlazione, non ci sono diritti se non ci sono anche doveri. Però questa predica potrebbe essere facilmente strumentalizzata, è strumentalizzata anche quella dei diritti, l'ho detto prima, no? Nell'America Latina il teologo Luis II mette in guardia da questa strumentalizzazione. Però è chiaro che è molto più facile strumentalizzare le prediche dei doveri, perché normalmente il dovere viene predicato da chi, ecco, ha piacere di sottomettere, di far sottomessi gli altri. Invece predicando i diritti noi veniamo resi sensibili, direi, all'altro, all'altro. Ed è quello che ci raccomanda alla fine il documento Justitia de Pax, dove si fa una tremenda diagnosi, io adesso ho la scheda, ma non ve la cito a memoria, ve la dico così a senso, dove la Commissione Justitia de Pax dice che purtroppo spesso l'educazione di noi cattolici ci ha formati a un senso ancora talmente individualistico per cui l'esistenza, il diritto dell'altro è qualche cosa a cui non siamo facilmente sensibili. E allora si raccomanda un'educazione a sentire l'altro come valore. In fondo è la vera predica dell'etica questa. Predicando il diritto dell'altro, io vengo a predicare il dovere mio. È un modo nuovo di predicare l'etica. Mettiamola a livello di diritti. Allora avranno voce gli umili, avranno voce gli altri, e noi saremo chiamati in causa non tanto a rivendicare quanto a dare la nostra azione. Ecco come si presenta, diremmo, la nuova sintesi tra Vangelo, senso stretto, e ragione umana. E allora ecco perché la Chiesa Cattolica oggi entra con un nuovo spirito più libero, diremmo, che non nel primo periodo, più libero in questa costruzione della società nuova, dell'uomo nuovo. Pensate, il grande avvenimento. Per la prima volta nella storia della Chiesa, un documento come l'enciclica Pacem in Terris ha osato citare la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Neanche Pio XII, hanno osservato gli storici, ha avuto il coraggio, eppure aveva un magistero parallelo a quello dell'ONU. Negli stessi anni in cui Pio XII parlava della dignità della persona umana, l'ONU mandava avanti questo discorso, e all'ONU, sappiamo, c'erano anche dei cattolici. È stato Maritain, uno dei nostri cattolici, che lavorarono anche all'interno di quel movimento che preparò la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Eppure Pio XII non ebbe il coraggio ancora di mandare avanti la Chiesa verso questo atto di fiducia nell'umanità e nella dichiarazione dei diritti dell'uomo. Per la prima volta un'enciclica ha osato elogiare, anche se ha accennato alcune riserve, a elogiare la dichiarazione dei diritti dell'uomo e dell'uomo. Una riserva, ve la posso dire subito, a me subito ha fatto impressione, l'osservazione l'aveva fatto già Maritain: non sono riusciti a introdurre questo concetto, che l'uomo, il concetto evangelico, appena viene all'esistenza è già titolare di diritti. Dio lo riveste di diritti fin dal seno materno. Hanno cominciato così il primo articolo: l'uomo, ogni uomo, nasce libero e uguale. Nasce, quasi a dire che i diritti cominciano con la nascita. Per noi cristiani i diritti cominciano con il concepimento, da quando l'uomo viene all'esistenza, anche nel grembo materno. Ma lasciando stare questi elementi, diremmo, di ancora insufficienza, noi abbiamo un'enciclica che ci impegna a guardare fuori della Chiesa e a dare valore a questo sforzo che fa l'umanità di darsi delle dichiarazioni lapidarie sui diritti dell'uomo, per la prima volta. E poi, sulla scia della Pacem in Terris, il Concilio, nella Gaudium et Spes, nella dichiarazione sulla libertà cristiana, la libertà religiosa, ha avuto il coraggio di ripetere questo. E adesso ormai abbiamo una Chiesa che non pretende più di gestire il tema dei diritti, ma diremmo dà la sua cooperazione rassicurando, sostenendo tutte le iniziative. Ha creato la Commissione Justitia et Pax, e non è solo internazionale, è anche nazionale, dovrebbe essere anche diocesano. Ecco un fermento che si dovrebbe fare in Italia. Io sono convinto che da Trento potrebbe venire un incitamento a sensibilizzare l'Italia religiosa, cristiana, proprio a prendere di petto questa causa dei diritti dell'uomo. E poi il Sode Pax, questo organismo misto tra Chiesa Cattolica e Consiglio Ecumenico delle Chiese, che è destinato a mandare avanti tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo, la solidarietà e la pace del mondo. E poi un'infinità di altri, se qualcuno volesse leggere qualche documentazione, è un po' in ritardo. Ernesto Gallina, la Chiesa Cattolica con le organizzazioni internazionali per i diritti umani, Unione Editori Cattolici Italiani, 68, un po' vecchiotto, però ha già un ragguaglio immenso di quante iniziative ci sono nel mondo nelle quali sono presenti i cattolici e i cristiani, e noi non sappiamo niente. C'è tutta una ricchezza di iniziative nelle quali i cristiani sono presenti. E come dice il Cardinal Roy, ecco la bella novità, non più a difesa dei diritti del cristiano o della cristianità o della società cristiana, ma in difesa dei diritti dell'uomo, in difesa della società umana, in difesa dell'umanità. Una Chiesa quindi che guarda dalla finestra e dà il suo contributo a difendere i diritti di ogni uomo, perché è sicura che difendendo i diritti di ogni uomo difende anche i diritti del cristiano, perché il cristiano è l'uomo. È vero che in tutti i nostri documenti noi troviamo anche quest'altro accenno, e credo che sia interessante che noi lo riteniamo presente. In fondo si sostiene che il diritto alla libertà religiosa è la base, il fondamento di tutti gli altri diritti. E questo noi cristiani abbiamo il dovere di lumeggiarlo, per mostrare veramente che soltanto se si difende, si tutela, si promuove il diritto alla libertà religiosa, cioè di riconoscere Dio e di correre verso di Lui da singoli in comunità, solo a questa condizione si riesce a salvare l'uomo, perché salvando Dio si salva l'orizzonte religioso dell'uomo, e salvando l'orizzonte religioso dell'uomo si salva la dimensione infinita dell'uomo. Altrimenti, spegnendo Dio, si spegne l'attitudine infinita dell'uomo e l'uomo diventa un grande essere, ma direi un triangolo, non un angolo aperto all'infinito. È in questo senso allora che questa azione che la Chiesa promuove nel mondo di tutela dei diritti dell'uomo viene sbandierata, è simpatico leggere in questo documento di Justitia de Pax, sbandierata non facendo leva solo su vie diplomatico, di presenza ufficiosa, ufficiale, come è di fatto oggi ancora alla Chiesa Cattolica, è presente a Helsinki, presente a Belgrado come osservatori, eccetera, ma direi preferenzialmente lavorando sul popolo, attraverso anche messaggi, appelli, gesti simbolici. Sentite l'appello, anche gesti simbolici, come dire, delle marce della pace, della raccolta di firme, delle, direi, dichiarazioni, delle denunce quando fossero violati i diritti dell'uomo, oppure altri tipi di appelli che diventano come delle stelle di Nazareth, delle stelle di Betlemme, come degli angeli che vengono seminati sul mondo a chiamare l'umanità alla pace. Come vedete, un po' l'ho disegnata con un po' di speranza, questa nuova fase dell'umanità. Esaurita la prima, in cui la Chiesa da sola ha dovuto mandare avanti il discorso del riconoscimento del valore dell'uomo e ha pagato qualche cosa di debito al peso dell'umanità, dopo un secondo periodo in cui il Vangelo sembrò essere legato alla Dea Ragione, svincolata da Dio, abbiamo finalmente un periodo in cui il mondo, crediamo, sia diventato adulto, e la Chiesa allora non più da sola, ma insieme col suo Vangelo si fa alleata di tutte le iniziative dell'uomo. E sembra quasi che si ritorni al tema della Lumen Gentium numero 1, introducendo tutto il discorso sulla Chiesa. L'osservazione è questa: il mondo sta unificandosi a livello culturale, tecnico, sociale. Ebbene, noi cristiani dobbiamo dare la più perfetta unificazione, l'ultimo tocco dell'unificazione in Cristo. Ma l'unità del genere umano come si fa? Non in estensione esteriore. L'unità si fa nel profondo dell'uomo, salvando l'uomo, ogni uomo, dal più piccolo dall'emarginato. Se non si salva ogni uomo, anche il più piccolo, l'emarginato, dandogli un valore divino in nome dell'incarnazione, noi non potremo unificare veramente l'uomo. E io credo, terminando, al dilemma di Dostoevskij: se c'è Dio, allora si può fondare qualche valore. Ma se Dio non c'è, tutto è lecito. Tutto è lecito. Se non ci fosse un valore divino dell'uomo, ecco perché noi cristiani siamo molto impegnati, se non ci fosse un valore sacro dell'uomo, non capisco perché bisognerebbe considerare importante un feto, dare valore a un mostro, dare valore a un uomo fragile di colore di pelle diversa dalla mia, a un povero ubriaco, un depravato, uno straccio di uomo che sta morendo lì sulle vie di Bombay o sotto i ponti di Roma o di Parigi. Non capisco. Se non ci fosse questa divina consacrazione di ogni uomo fin dalla radice, non capirei come bisogna a tutti i costi valorizzare tutti gli uomini. Penso che come cristiani dovremmo pensarci a un nostro impegno. È una nostra vocazione. Sento di dover interpretare anche a voce il vostro ringraziamento e la vostra soddisfazione per questa lezione che ritengo magistrale, tanto per il rigore e la profondità dei concetti e della formulazione, come per il linguaggio accessibile a tutti indistintamente, sarebbe stato alla portata anche di molti più umili e semplici di quanti si trovano qui. Mi pare che in questo profilo, che è dovuto per forza essere molto rapido e concentrato, è stata data una risposta molto pertinente a ciò che all'inizio chiedevo e dicevo, al quesito, cioè cosa c'entrano le scienze religiose con i diritti umani. Siamo stati veramente introdotti al vivo nella comprensione di questa pertinenza delle scienze religiose coi diritti umani, senza che essa voglia assumerne il monopolio o esclusivizzarsi nella competenza, ma inserendosi però come un elemento necessario nel discorso. Poi ho trovato sommamente apprezzabile la prospettiva storica, il senso storico di quanto è stato esposto. Infine, l'educazione è una sintesi, è stato un discorso di sintesi che cerca di tener conto di tutto e di comporre insieme fede e ragione, riflessione e azione, vero? Per trovare veramente la via di aiutare nella realizzazione dei diritti dell'uomo, che rimane sempre davanti come grande compito di tutti. Ringrazio infine anche proprio per il tono umano con cui l'esposizione è stata fatta e che tutti abbiamo sentito tanto vicino, visto dall'espressione dei volti che siete stati conquistati, quindi accenno appena a questo fatto, e che mi ha ricordato un altro tratto che non ho ricordato prima del nostro relatore, i suoi meriti vivi nel campo dell'ecumenismo. Comprendiamo, siamo in giorni in cui si parla anche di questo tema e credo che non sia un caso se questo modo di sentire sbocca automaticamente anche in quel settore a portare un contributo positivo, per il quale auguriamo al relatore veramente anche il miglior successo e le più belle soddisfazioni. Adesso, siccome prima ho preso l'impegno lungo che se qualcuno ha qualche domanda da fare abbia spazio di farla, quindi onoriamo questo impegno, solo non potremo dedicare moltissimo tempo, ma il nostro discorso proseguirà ancora, penso. Comincia secondo me. Concludiamo, se non c'è nessuno che è stato lungo domani. Se non ci sono interventi pronti, insomma, alla mano, io propenderei per concludere, dato che l'esposizione ha occupato un po' di tempo, più di un'ora. Cosa che a me non riesce, perlomeno, non so, anche a voi non mi pare. Quindi, sapendo che il nostro discorso si inizia oggi. E non si termina oggi, io vi do appuntamento per il 16 del mese prossimo, di febbraio, per l'incontro che avremo ancora qui a quest'ora col rabbino, il professor Disegni, però che viene a parlarci dei diritti dell'uomo nel mondo religioso di Israele. Quali radici ci siano nel mondo biblico per i diritti dell'uomo, abbiamo cominciato a intuire da questa introduzione. Ringrazio tutti della presenza e auguro di potersi rivedere.